Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Buongiorno a voi e benvenuti, accomodatevi, si aprono le porte di questa casa che non è un albergo. Accanto a me, accomodato sul divano bello, Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Senti Alberto, oggi in radio parleremo di TV e in particolare della televisione che amano i nostri figli. Diventiamo un vero e proprio programma multimediale. Mai. Saltiamo chi ci tiene? Da un media all'altro. Allora, volevo ringraziare, prima di andare a sentire la lettera che ci ha dato un po' lo spunto per questa trasmissione, Giacomo Spunto in regia, la parte tecnica, Anita Panizza in redazione. E allora, Giacomo, andiamo con la lettera. Mia figlia Elisabetta, 12 anni, è una vera TV dipendente. Effettivamente ha i suoi buoni motivi. Io e suo padre lavoriamo molto e lei è figlia unica. Ma ciò che mi lascia senza parole sono i suoi gusti e preferenze. Ha una vera e propria ossessione per i reality show. Se potesse vorrebbe seguirli tutti. Inoltre, le piace fare un'altra cosa che a me, mamma, lascia molto sconcertata. Spesso fa intere sessioni di zapping, cioè magari per un'ora intera salta letteralmente da un canale all'altro e guai a dirle qualcosa. Insomma, si appassiona non a qualcosa, ma al cambio di stimolo continuo. Durante l'estate ho provato a facilitare la sua disintossicazione dallo schermo con scarsi risultati. Perché ai nostri figli piace così tanto la TV spazzatura? Ci sono programmi che volete raccomandarmi affinché io glieli proponga in visione? Sto pensando di darle un incentivo se si dedicherà alla visione di programmi col bollino blu. Chi meglio di voi può indicarmene? E mi raccomando, che non siano noiosi, altrimenti faccio un buco nell'acqua. Alberto, allora, tu per tagliare la testa al toro, come si dice, hai detto i bambini possono vivere benissimo senza TV e l'hai spenta. Noi in casa viviamo con DVD, film, li scegliamo, eccetera, eccetera, quindi siamo un po'... una famiglia a parte rispetto a questo tema. Però devo dirti che hai anche bambini più piccoli, sì. Si lasciano più facilmente guidare, perché sennò i nostri ascoltatori dicono: ma chi è questo Alberto Pellai che riesce? E guarda, sono in tanti a dirmi chissà finché dura, e noi siamo lì pronti, sappiamo che prima o poi dovremo reintrodurre la televisione in casa. Però siccome questa mamma ci chiede consigli, programmi col bollino blu e io per esempio non sono in grado poi di dare tutte queste indicazioni essendo a digiuno di programmi televisivi, abbiamo però fatto... Però dica la verità, che la guardi di nascosto, perché dai, non ci nessuno ci crede che tu ti non dirò, veda la leggo TV. Leggo molto intorno alla TV, mi rimango molto molto aggiornato rispetto, però veramente io la vedo poco. Va bene, però noi abbiamo un ospite che di TV ne vede parecchia e che è in grado di segnalare anche alla nostra mamma e parlare con noi, con i nostri amici che ci stanno seguendo da casa, magari nei loro spostamenti verso le vacanze, di così aiutarci un po' a orientare le scelte dei nostri figli. È Elisabetta Scala, che è responsabile dell'osservatorio TV del MOIGE. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, adesso sentivo... Diciamo che non me la vedo tutta da sola, eh? Beh, certo, non me la vedo tutta da sola la televisione. Se no sarebbe una bella indigestione. Sarebbe sbagliato se ne vedessi troppa, ma ho un osservatorio che mi dà una mano, ci dividiamo un po' i compiti. Intanto mi scusi, ma voglio attivare i nostri ascoltatori a mettersi in contatto con noi, il nostro numero verde è a disposizione, 800 24 0024, i messaggi al 349. 9238 6666. Alberto, prima di chiedere di tutto e di più alla nostra Elisabetta Scala, io volevo chiedere a te, secondo il tuo punto di vista, tu che sei il nostro esperto, possiamo provare a disintossicare dalla TV i nostri figli approfittando proprio dell'estate, in cui le giornate invitano ad uscire di casa, a stare fuori, a fare un po' di attività sportiva, incontrare gli amici? Si può pensare, dire, per queste estate la TV la teniamo spenta, oppure la vediamo solo in una fascia della giornata. Allora, credo che dovrebbe già succedere in automatico, proprio perché i ragazzi hanno molto più tempo a disposizione, possono dedicare il tempo libero alle loro passioni, dovrebbero vedersi con i loro amici e compagni, in automatico loro dovrebbero già avere molte meno richieste televisive. Tra l'altro, il fatto di avere un'intera giornata a disposizione consente davvero di ampliare le loro scelte e selezioni televisive, perché per esempio potrebbero guardare programmi in una fascia oraria diversa da quella a cui sono obbligati dagli orari scolastici o dai compiti, e quindi scoprire programmi con cui normalmente non hanno familiarità. A proposito di programmi, abbiamo chiamato la dottoressa Scala proprio perché il MOIGE ha appena pubblicato con Magi Edizioni la nuova edizione di una guida di cui avevamo accennato anche l'anno scorso. Si chiama Un anno di zapping 2008-2009. È una guida molto particolare rispetto alle indicazioni che dà sui programmi televisivi. Perché, dottoressa Scala? Ma intanto perché non esisteva niente del genere sul mercato, diciamo, quindi siamo i primi e quindi già questa è una novità. Ma poi soprattutto perché è fatta in maniera molto semplice, sintetica, le schede sono di facile lettura e comprensione e hanno anche dei simboli che aiutano proprio anche nella scelta, perché dicono sia la qualità dei contenuti del programma sia indicazioni sull'età. Per cui, ecco, alla mamma che ha scritto, io consiglierei senz'altro di utilizzare questa guida, perché effettivamente è molto utile nel panorama televisivo e tra l'altro di facile consultazione anche da un figlio. Quindi i figli stessi che magari a volte non seguono i nostri consigli, forse leggendo direttamente le schede di certi programmi potranno capire meglio i contenuti e agevolare la scelta che i genitori cercano di fargli fare, di indirizzare. E oggi a questa casa, che non è un albergo, si parla di TV. In linea con noi abbiamo la dottoressa Elisabetta Scala, che è responsabile dell'osservatorio TV del MOIGE. Dottoressa Scala, vogliamo raccontarci quali sono i programmi a cui avete dato un bollino blu? Segnalati? Sì, allora intanto mi fa piacere sottolineare che questo lavoro è stato fatto grazie alla... al gruppo dell'Armando Fumagalli, che è professore dell'Università Cattolica di Milano, è responsabile del Master di TV e Comunicazione. Sì. Quindi diciamo le schede sono realizzate non su valori, diciamo, giudizi personali che possono essere esagerati magari, ma su un giudizio, un valore tecnico dato da esperti, da coloro che fanno televisione e sanno come. Quindi è dato da persone competenti. Esatto, ci siamo un po' messi in discussione. Anche bene, su questo, allora io vorrei capire da lei quali sono i programmi che consiglierebbe alla nostra mamma, ragazzina di 12 anni, appassionata ai reality e in realtà anche presa da questo piacere che devo dire non è solo degli adolescenti, ma di saltare da un programma all'altro. Dottoressa Scala? Allora, dunque, le valutazioni che noi abbiamo dato, quelle di massimo livello le abbiamo definite con la cosiddetta conchiglietta del MOIGE, sì, che è quindi per noi il massimo della qualità dei contenuti e anche della forma artistica. Sì. E abbiamo cercato di premiare, in questo senso, programmi di tutti i generi. Sì. Quindi, io vorrei sapere i nomi. Si potrà trovare. Vorrei sapere allora, i nomi, per esempio, grazie. Penso alla ragazza di 12 anni e alle sue passioni, mi viene in mente qualche cosa di Disney Channel, come può essere Camp Rock, che è stato il fenomeno di quest'anno, perché no, è stato un programma di buona qualità. Se preferisce piuttosto un quiz, abbiamo premiato Chi vuole essere milionario, che è molto carino, molto stimolante nei contenuti per qualsiasi età, quindi anche per una dodicenne, e sempre con una conduzione effettivamente molto carina. E certo, l'età di 12 anni è un'età difficile, quindi non è facilissimo trovare. Per esempio ci sta, non l'abbiamo dunque premiato, però è tra i programmi che abbiamo considerato di alta qualità, Adolescenti istruzione per l'uso, che è un programma di La 7 che abbiamo valutato di altissima qualità, insieme al SOS Data, che è invece più per bambini piccoli, sì, più so. Piccoli diciamo, mm. invece è stato premiato con punti con di vista Moise. Allora io però, direi... adolescenti istruzioni per l'uso più adatto ai 12 anni. Sicuramente. Allora, dottoressa Scala, io inviterei Alberto a lanciare come sempre il nostro sondaggio. Sondaggio di oggi, prendendo magari spunto appunto da queste sollecitazioni che ci ha dato la dottoressa Scala, programmi TV amati dai Moige, quelli amati dai nostri figli, ma Alberto? Adesso lanciamo un sondaggio ai nostri ascoltatori, aiutateci nella mezz'ora che abbiamo a disposizione a scrivere la classifica dei programmi che i vostri figli amano e che anche a voi genitori piacciono molto, quelli ai quali, cioè voi come genitore, dareste la cosiddetta conchiglietta del Moige. Ci interessa molto anche avere però un vostro parere sui programmi, direi pollice verso, cioè programmi che i vostri figli amano molto e che quando voi invece guardate insieme a loro dite: ma che programma è? Com'è possibile che a mio figlio piaccia una cosa del genere? Quindi programmi sì e programmi no. Qual è il vostro preferito tra i programmi amati dai vostri figli? Quale invece vorreste radiare dal palinsesto televisivo? Io direi che però catturiamo in mezzo al mare la dottoressa Mussi Bollini, capo struttura Rai 3 Bambini Ragazzi e coordinamento cartoni. Buongiorno, bentornata. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti quanti voi dalla Calabria. Stiamo costeggiando la costiera calabra, un buon vento, la barca cammina, quindi magnifico. Sono in vacanza. Così siamo un po' in vacanza anche noi. Anche voi, sì. Tra l'altro sto passando davanti a un bellissimo parco eolico e fa piacere vedere queste pale girare al vento e immaginare quanta energia stanno producendo, è proprio bello. Lo credo, ma si sente già dalla sua descrizione, noi abbiamo chiuso gli occhi e siamo lì con lei. Ma dottoressa Bollini, la riporto un attimo al suo lavoro, perché eccoli. I programmi per ragazzi della RAI hanno avuto ottime valutazioni nella guida del Moige, ma non sempre sono stati, non sempre quello che il Moige premia o quelli che sono considerati programmi di qualità sono poi dei programmi che hanno degli ascolti, ecco, sono premiati dall'ascolto. Sì, noi abbiamo un po', vabbè, abbiamo il nostro fiore all'occhiello che è la Melevisione e io so che il magnifico la vede, sì. La Melevisione la vede di nascosto perché non può farla vedere ai suoi bambini, ma devo dire che più volte mi ha detto: Nico, posso venire a casa tua che mi guardo un po' di TV? Ma non dovevo dirlo, Alberto. Va bene. Lo so bene, è un segreto che non si, però lo so. Ma al di là di questo, la lettera della mamma parlava di reality. Noi quest'anno abbiamo fatto un'esperienza davvero interessante. Io ho acquistato dalla BBC, dai programmi per ragazzi della BBC, delle bellissime docu-fiction, direi anche docu-reality sono, che si chiamavano Amazing Serious Jungle, Serious Desert, Serious Arctic, ed erano un gruppo di ragazzi adolescenti che venivano scelti attraverso un'attività davvero fisica, di analisi, anche di colloquio con psicologi, eccetera, venivano presi e portati in mezzo alla giungla e lì se la dovevano cavare da soli insieme a un adulto, chiaramente, di riferimento che li accompagnava, e dovevano costruire una piattaforma per degli oranghi. Ora, questo era un reality a tutti gli effetti, nel senso che le relazioni interpersonali tra i ragazzi, le difficoltà della giungla, costruisci tu una piattaforma per oranghi nel mezzo della giungla dove l'unica cosa che hai sono tende e una borraccia d'acqua al giorno, quindi davvero rispondeva appieno a tutti quelli che a mio avviso erano gli elementi dei reality che potrebbero interessare i ragazzi. I ragazzi non l'hanno visto ed era un target di ragazzi di riferimento 12-15, cioè quelli nostri. A quel punto mi è venuto in mente che i ragazzi non vedono quei reality perché in realtà gli piacciono i reality dove c'è il mondo adulto rappresentato. La curiosità dei nostri figli, i miei ormai sono grandi, ma sono passata anch'io dall'età, ancora non erano i reality. Sì, noi siamo scampati a quella cosa, no, con insomma, i figli grandi. Ma il problema di quando mia figlia è piccola era che vedevano nella RAI, ma vengano 200.000 nella RAI, piuttosto che altri programmi del pomeriggio, certo. Che i nostri figli ne sono decisamente più negativi. Ma allora quindi quello che mi viene da pensare è che i nostri figli sono invece, i nostri figli o comunque il target adolescente, è incuriosito davvero da quello che è la rappresentazione del mondo adulto, da cui sono attratti, incuriositi. e quindi sarebbe quello da analizzare, perché ho ben provato sulla mia pelle che 25 puntate di reality inglese fatto dalla BBC, tra l'altro fatto veramente bene. Certo. Cioè, c'erano i bambini, i ragazzi. Ai ragazzi piace sbirciare nel mondo degli adulti. Dottoressa, io volevo dare la parola a Renato che ci aspetta da Roma, ha chiamato l'824-0024. Lo facciamo accomodare e quindi anche lui può dire la sua. Renato, buongiorno. Buongiorno, sono Renato Pascariello. Buongiorno, io sono un artista. Saluti a lei e a tutti i suoi ospiti. Volevo semplicemente dire questo: la televisione è un elettrodomestico, no? Come il frigorifero, eccetera e quant'altro. Allora, forse se noi, diciamo, invitiamo i ragazzi a pensare allo schermo televisivo, per esempio, come luogo in cui, per esempio, guardare, che sono un documentario per imparare una tecnica artistica, forse li possiamo aiutare. In realtà le immagini, l'arte praticamente, questo è noto a livello internazionale, libera la creatività dei giovani. Quindi se un ragazzo si spiega, per esempio, che non vedere la televisione per un certo numero di ore al giorno serve praticamente a sviluppare la sua creatività, gli permette di acquisire delle abilità, per esempio disegnando, dipingendo e quant'altro, e se noi questo lo diffondiamo attraverso i media, va bene, attraverso un'importante campagna nella scuola, in tutto il paese e meglio a livello internazionale, io credo che noi renderemmo un grande servizio ai giovani, ai ragazzi e ai bambini, che così possono, diciamo, sperimentare tutte le possibilità, per esempio, che il dipingere, lo scolpire, il costruire, lo scrivere, va bene, da loro. Io credo che questo sia importante, perché altrimenti... Assolutamente, Renato. Se vi posso aiutare, io sono a disposizione, sono a Roma, mi contattate, sono a vostra completa disposizione. Vi ringrazio. Grazie a lei, Renato. Vedi, abbiamo Manforte. Alberto. Abbiamo un artista disponibile per stimolare la creatività, ma vorrei chiedere a entrambe, alla dottoressa Scala e alla dottoressa Bollini, come mai il format del reality piace così tanto ai ragazzi, tanto da farli diventare i principali spettatori di questa modalità di spettacolo, e esiste un reality oltre a quello che ci ha appena citato Mussi Bollini, che ha avuto grande successo in televisione, che sia voi del MOIG che Mussi Bollini della RAI considerano adatto a un pubblico di adolescenti? Dottoressa Scala. Sì, dunque, Mussi ha detto bene sicuramente alcune delle motivazioni per cui i reality piacciono ai nostri ragazzi. Mm. Io credo anche che i reality siano ben costruiti, cioè sono fatti in modo tale che comunque ogni tanto accada qualche cosa che attira l'attenzione di grandi, piccoli, di qualsiasi età, di chiunque sia in quel momento lì davanti, nel bene e nel male. Cioè che attira l'attenzione per vedere, vediamo adesso fino a dove saranno incapaci di arrivare, purtroppo di solito verso il basso, però è anche un sistema, anche questo è un sistema di attirare l'attenzione, c'è poco da fare. E riguardo a reality che siano, insomma, di una certa di qualità, noi abbiamo detto che abbiamo premiato SOS Tata, che è un reality anche adolescenti istruzioni per l'uso. Ci sono dei reality, per esempio della RAI, che hanno o pseudo reality, come vogliamo chiamarli, che hanno un certo livello di accettabilità, penso a Ballando con le Stelle, penso anche X Factor, esattamente. X Factor, che è molto amato dai ragazzi perché parla di musica, sì, per esempio. E poi ha una conduzione frizzante. Un livello di qualità. Sì, perché comunque il rapporto che c'era tra questi ragazzi che facevano parte della gara era un rapporto, è sempre stato un rapporto molto carino, molto pulito, molto basato sull'amicizia e non sulla cattiveria e la competizione negativa. Certo. E quindi diciamo che anche... Insomma, ce ne sono, certo, guardando bene nella programmazione, scegliendo per bene, no, perché stiamo preparando Alberto, perché tra poco la accenderà nuovamente anche lui. Allora, dottoressa Mussi Bollini, lei ha ancora voglia di lavorare o vuole tornare in vacanza? No, non siete i primi che mi hanno telefonato. Va bene, allora intanto... Eccoci, siamo tornati insieme, la TV che guardano i nostri ragazzi, programmi che piacciono a loro, non sempre piacciono a noi, insomma vorremmo aiutarli a scegliere bene. Sono arrivati i messaggi con le vostre preferenze, tra poco Alberto stilerà una sorta di classifica, però noi andiamo al nostro consiglio di lettura. Oggi, grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, potete ricevere a casa un bel libro che si intitola Carosello Story, la via italiana alla pubblicità televisiva. Per ricevere questo libro a casa però dovete essere veloci, infatti dovete raggiungere per primi l'indirizzo di posta elettronica essere benessere@radio24.it, titolo del libro recapiti e non dimenticate il vostro numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Allora Alberto, come... Allora, stiamo ricevendo molti consigli, il dottor Barba, coordinamento genitori democratici, ci scrive Net, scuola di sopravvivenza, i Simpson, poi Shinkan, Geo in Geo, Trebison, da Melevisione, un plebiscito, ma a proposito di reality qua, Nicoletta, stiamo per fare uno scoop, perché te lo saresti mai aspettato che l'Antoniano... Quelli dello Zecchino d'Oro, che quelli tra l'altro è, esatto, è il programma per bambini e ragazzi più visto di tutta la, di tutto l'anno televisivo, quello che fa i massimi indici di ascolto, sta per realizzare anche lui un reality show e noi siamo andati un po' in allarme, abbiamo detto ci troveremo mica con un'isola dei famosi organizzata dall'Antoniano, perciò abbiamo chiamato Fabrizio Palaferri, vice direttore dell'Antoniano e tra l'altro uno degli autori di questo programma che si intitola Music Gate. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno, abbiamo in linea la dottoressa Mussi Bollini e la dottoressa Elisabetta Scala del MOIGE. Tanto io faccio un po' le presentazioni da padrona di casa, così lei può salutarle. Ci dica però Fabrizio come mai l'Antoniano pensa a un reality game show per ragazzi. Volete entrare anche voi in questo filone oppure volete differenziarvi da questo filone? Ma in realtà non direi proprio un reality, cioè non ha tutti i canoni per definirlo reality, infatti noi lo chiamiamo game show, non è neanche un talent show. La linea di confine è lì, è vero, ci siamo anche domandati insieme a Raisata, al dottor Nofri, quale poteva essere il contributo dell'Antoniano all'interno di un panorama televisivo che, come sentivo prima anche dalle parole di Mussi Bollini, della dottoressa Scala, insomma, non è così facile, non c'è una lettura così semplice. A volte uno scrive target quando pensa ad un programma 8-13, ma poi in realtà scriviamo numeri un po' a caso, perché è veramente difficile riuscire a centrare quello che i nostri ragazzi, i nostri bambini poi in realtà vogliono vedere. Un po' sono attratti dal mondo aspirazionale dei più grandi, un po' secondo noi... quando guardano la TV facendo uno zapping veramente forsennato non si fermano a cercare di entrare all'interno dei contenuti. Quindi insomma, abbiamo pensato che valesse la pena provare a scrivere una nuova trasmissione. Abbiamo avuto grande collaborazione come sempre dalla RAI e adesso il 10 ottobre vedremo se questa nostra scommessa insomma funzionerà e sarà poi amata dai ragazzi, dalle famiglie, ma anche dal MOIGE, perché no, e anche dalla nostra amica Mussi Bollini, insomma, sarà anche un punto così per vedere, per metterci in gioco. Ecco, vi mettete in gioco, la dottoressa Mussi Bollini e la dottoressa Scala sono pronte a vedervi a giocare, ma dottoressa Mussi Bollini, lei prima del GR mi ha detto vorrei dire una cosa, io l'ho stoppata. Sì, dunque, volevo rispondere a Renato, nel senso che, allora, se noi secchiamo un poeta, adesso chiederà che nei programmi per ragazzi ci siano le poesie, sì. Secchiamoci in qualsiasi competenza. In realtà dentro Trebison non abbiamo fatto arte tutti i pomeriggi, sì. Allora se uno pensa a un programma dell'arte per insegnare a dipingere eccetera, quello è un programma prodotto educational e sui canali education della RAI ne troviamo una a bizzeffe, sono bellissimi, li troviamo sull'arte, li troviamo sull'inglese, li troviamo sul computer, sulla storia, quant'altro. Quelli sono prodotti educational, quello che facciamo noi quotidianamente è prodotto edutainment ed è quello con cui devo riuscire a fare ascolto, alzare lo share per Rai 3 e per la Rai tutta. Allora il prodotto edutainment ha tutto un altro tipo di come dire, suggerimento e di stimoli per i ragazzi, dove anche c'è l'arte, si gioca con l'arte, si gioca con la scienza. Trebison è un laboratorio aperto quotidianamente tutti i pomeriggi. Questa era la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa è ringraziare di nuovo il MOIGE e Elisabetta Scala, perché il lavoro che hanno fatto è un lavoro preziosissimo. Voi non ve ne, cioè, le persone non se ne rendono conto, ma anche a livello europeo è la prima guida stilata fatta in quel modo, con quell'attenzione, la spiegazione. Oltretutto il bello, la cosa bella è che il professor Fumagalli della Cattolica è riuscito a spiegare con parole giuste ai genitori, cioè non da studioso della materia il contenuto del prodotto televisivo, ma proprio con il linguaggio che per cui i genitori possano capire se quel programma è adatto o non adatto alla visione. Insomma, un gran bel lavoro di cui devo dire, dottoressa Mussi Bollini, a questa casa non è un albergo, parliamo puntualmente, per cui la lungimiranza di Alberto ci ha fatto comprendere che la guida del Moige sia utile, quindi come tutte le cose fatte per bene presuppongono un grande lavoro dietro. Dottoressa Scala, la incuriosisce questo, non possiamo chiamarlo reality, dottor Palaferri, lo chiamiamo questo nuovo, chiamiamolo con il suo nome forse. È un show, proprio. In realtà è una trasmissione dove i bambini giocano, mettendosi in gioco naturalmente, quindi conoscendoli e quindi con qualche aspetto che possiamo definire da reality, ma chiamarlo reality probabilmente no, è non vogliamo chiamarlo. Dottoressa Scala, la intriga questo nuovo progetto dell'Antoniano? Certamente, mi curiosisce moltissimo e mi fa piacere che ci siano persone che lavorano su ambiti nuovi, diciamo, anche no? Per trovare programmi che possano in qualche maniera essere adatti ai nuovi modi di vedere la televisione dei nostri ragazzi, in modo che appunto magari i ragazzi non siano costretti a vedere, perché a volte anche questo è il motivo per cui loro vedono programmi per adulti, perché non c'è qualche cosa di proprio specifico per loro, con quei linguaggi che sono propri dei nostri ragazzi, non sono quelli che erano i nostri quando eravamo bambini, sono molto diversi. Noi eravamo quindi, più forse un ben venga chi studia su questo. Quest'anno per esempio un grande lavoro l'hanno fatto anche sempre, visto che Mussi Bollini fa i complimenti a noi, io li faccio certo, a loro. Ma diventa un po' imbarazzante, sì? Il gran concerto. No, il gran concerto è stata una gran novità, perché un modo nuovo di far conoscere la musica classica, si parlava di arte prima, no? La musica classica era un altro mondo un po' inesplorato. E come far apprezzare ai bambini la musica classica con un programma che non fosse noioso, che fosse adatto a loro. Il Gran Concerto è stata una novità molto importante da questo punto di vista. E quindi ben venga se l'Antoniano ha qualche altra cosa da proporci su questo stile che piace ai nostri ragazzi. Allora, io volevo approfittare però ancora del dottor Palaferri per chiedere, voi prima di andare in TV però andate sulle piazze, è così? Ma sì, perché questa nuova trasmissione presupponeva un po' di un casting, e come facciamo per le selezioni dello Zecchino d'Oro, cioè la ricerca dei nostri bambini interpreti delle canzoni dello Zecchino d'Oro, abbiamo pensato che valesse la pena andare sul territorio, cioè cercare di capire. Poi vi racconto se volete in un secondo che trasmissione sarà, insomma, perché credo sia importante anche quello. Però visto che parliamo di bambini che hanno questa passione per la musica, il titolo Music Gate è proprio perché abbiamo immaginato che all'Antoniano ci fosse questa porta immaginaria fantastica dove chiunque, e quindi i nostri bambini, possono attraversandola entrare nel mondo che loro guardano a volte soltanto in TV, e cioè quello di potersi mettere in gioco. Noi sceglieremo bimbi che vengono soltanto da scuole o di danza o di canto, che abbiano questa grande passione, che per noi non è negativa a prescindere, cioè una passione importante, quindi giusto che i genitori facciano in modo che i loro bimbi studino, crescano. Questa passione all'Antoniano, attraversando questo Music Gate, può essere espressa in che modo? Giocando con altri bambini e costruendo una squadra insieme a ballerini, insieme ad altri cantanti, per arrivare alla fine della trasmissione a questa performance finale in cui si mettono in gioco in un, tra virgolette, mini musical, chiamiamolo così, l'uno contro l'altro. Una platea di 200 bambini decreterà chi in quel momento avrà espresso al meglio il suo mondo immaginario. È ovvio che è importante come si declinano queste cose, è ovvio che è importante non far pensare o capire che l'uso della televisione sia soltanto perché, non so, si aspira al successo, si guardi alla TV soltanto come vado in TV, perché purtroppo è questo. È così, il messaggio che è arrivato è questo. Però quindi con il vostro programma date l'opportunità ai ragazzini, ai loro genitori di coltivare le passioni, in senso... Sì, educare, coltivarle. Allora io vi devo salutare, ahimè, saluto la dottoressa Mussi Bollini, che lasciamo veleggiare. Saluto Fabrizio Palaferri, in bocca al lupo per questa nuova, per questo nuovo programma, non vedo l'ora di vedere il numero zero. Bene, allora crepi il lupo. Elisabetta Scala, grazie, buon lavoro e grazie per il vostro impegno. Grazie a voi. Un in bocca al lupo allora a Fabrizio Palaferri, lo facciamo anche io e Alberto Pellai, e magari ritorneremo a parlare di questo programma sicuramente quando di nuovo, quando sarà veramente in onda. Dottor Palaferri, grazie. Grazie a voi. 10 ottobre vi aspettiamo. Certo, e noi ci saremo. Alberto, salutiamoci. Salutiamo a sabato prossimo, perché noi terremo la casa aperta per tutto l'estate. Buona giornata.